L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati da Laura Bettini, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale parleremo di Fukushima, la centrale nucleare pesantemente danneggiata dal terremoto tsunami del 2011, della quale in questi giorni si parla molto per i livelli altissimi di radiazioni che sono stati rilevati nell'area, nelle acque circostanti, e per il piano annunciato dal governo giapponese che comprende addirittura la costruzione di un muro di ghiaccio contro le perdite. Ne parliamo con Alessandro Farrugia, che è un collega del Quotidiano Nazionale, autore all'indomani di quella tragedia di un libro dal titolo Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, un volume molto interessante nel quale Farrugia va un po' a scandagliare quello che è stato all'origine anche dei guai di Fukushima. Comunque potete sempre ovviamente trovare il volume in libreria. Adesso Alessandro, affrontiamo questo nuovo piano che è stato presentato dal governo. Cos'è questo muro di ghiaccio? A cosa dovrebbe servire in pratica? Teoricamente ci dovrebbero essere delle tubature che entrano nel terreno, creare una sorta di serpentina di tubature nel terreno che con l'immissione di sostanze chimiche particolari trasformano il terreno in terreno ghiacciato, in quello che in Siberia e altre latitudini viene chiamato permafrost. È un esercizio di creatività che probabilmente non avrà successo, come non hanno avuto successo altri tentativi che sono stati fatti in precedenza. Tentare in una situazione complessa e ad alto rischio come quella di Fukushima di inventarsi soluzioni mai provate prima è un azzardo, e il risultato quasi sicuramente sarà deludente. Purtroppo la TEPCO si conferma ancora una volta un apprendista stregone, compie ripetutamente errori e ha sempre la pericolosissima tendenza a cercare di risparmiare. Lo stesso lo si è visto nella vicenda dei serbatoi che perdevano. Ecco, a proposito di questa vicenda, di cui molto si parla anche perché insomma, potrebbe avere delle ricadute perfino nei nostri mari, no? Si dice. Qui che cosa sta accadendo in questi serbatoi? Dunque, la situazione è la seguente. A Fukushima attualmente c'è un grosso problema di acqua contaminata. Ci sono 77.200 tonnellate di acqua radioattiva nei reattori e nei locali turbine. Nei reattori, perché se sono dovuti allagare i reattori per tenerli freddi, per evitare che il combustibile fondesse. In più ci sono nei serbatoi, cioè 1.000 serbatoi, giusto per darvi l'idea della grandezza, altre 15.630 tonnellate che si trovano nello stoccaggio. Di questi 1.000 grandi contenitori di acciaio, nei quali sono contenute queste 15.630 tonnellate di acqua radioattiva, ce ne sono 350 che sono dello stesso tipo di quelli che hanno perso. Probabilmente sono stati usati i serbatoi sbagliati. Questo tipo non è perfettamente adeguato soprattutto nei raccordi e nella flangia inferiore. Il risultato è che hanno perso serbatoi sia dell'area H4 che dell'area H5 che dell'area H3, cioè non si tratta di un caso unico di un serbatoio che ha perso, ma strutturalmente stanno perdendo una serie di serbatoi. Almeno 5 serbatoi hanno mostrato perdite di vario tipo. A questo si aggiunge il fatto, e per questo motivo la TEPCO, come dicevamo, tenta il sistema del congelamento del terreno sotto la centrale, c'è il fatto dell'acqua che circola sotto la centrale, perché la centrale è una zona abbastanza ricca di acqua, e alle 300 tonnellate che sono sicuramente state perse da almeno un serbatoio, se ne aggiungono altre 300 il giorno di acqua che circola sotto la centrale, in parte entra dentro i reattori e lì resta, e in parte transita, viene contaminata più o meno debolmente e poi finisce in mare. la centrale è così piena di acqua e si trova in un terreno in parte di riporto, che secondo alcuni ricercatori c'è il rischio che il terreno scivoli lentamente verso il mare e che quindi almeno una parte degli edifici della centrale perdano quantomeno stabilità, il che è preoccupante soprattutto perché ancora le piscine sono cariche di combustibile, in particolare la piscina numero 4 è molto instabile. Se la piscina numero 4 dovesse semplicemente crollare, sarebbe un grosso problema, anche al di fuori del perimetro della centrale, perché ci sarebbe un forte rilascio di radionuclidi e potenzialmente sarebbe un incidente nucleare molto grave. A proposito di quello che dicevi poco fa della TEPCO, c'era questa frase molto significativa del presidente dell'autorità nucleare giapponese, faceva riferimento in particolare a questo discorso delle radiazioni e quindi di quando sono state rilevate, 1800 millisievert, poi 2200 millisievert, però diceva si tratta di raggi beta o di raggi gamma, ad esempio, sono due cose completamente diverse con effetti completamente diversi. Direi che anche questa richiesta di chiarimenti da parte dell'autorità giapponese è importante e spesso sottovalutata. Sì, assolutamente, la TEPCO ha sempre dato molte meno informazioni di quante ne avesse, anche se peraltro è vero che i 1800 millisievert era in larga parte di radiazione beta, meno penetrante della radiazione gamma, e che quindi la stampa mondiale in questo caso ha dato informazioni un po' più esagerate di quanto non avrebbe dovuto. Certo, la TEPCO non dicendo che era radiazione beta, insomma, si gioca sempre sull'equivoco. Comunque, giusto per dare l'idea di che cosa sia la TEPCO e di come continui attualmente a lavorare, secondo me è interessante raccontare e come loro hanno misurato la radioattività dopo lo sversamento di 300 tonnellate di acqua radioattiva che hanno scoperto il 19 di agosto nel serbatoio 5 dell'area A4. Loro hanno fatto una misurazione della radioattività il 31 agosto per vedere se nei serbatoi vicini c'erano altre perdite e hanno misurato anche l'area vicina al serbatoio che aveva perso e hanno trovato il famoso dato di 1800 millisievert, 18 volte superiore al livello normale. Cioè hanno misurato da 70 a 100, 220 fino a 1800 di radiazione beta. Sembrava 18 volte più del normale, sembrava un dato mostruoso. In realtà la sconcertante realtà è che la TEPCO nelle misurazioni del 22, cioè subito dopo la scoperta della perdita, aveva usato strumenti che misuravano al massimo 100 millisievert ora. E per questo che il 22 non ha rilevato il picco di 1800. Cambiato lo strumento è venuta fuori la realtà con conseguente brutta figura. Anche grazie alla nostra ignoranza, nel senso che non tutti comprendiamo, non tutti sappiamo, dico, questa terminologia, questi argomenti. Io credo che sarebbe essenziale che il governo giapponese si facesse aiutare e soprattutto togliesse alla TEPCO la gestione dell'emergenza. La TEPCO ha mostrato chiaramente di non essere in grado, serve qualcun altro che se ne occupi. Recentemente anche i russi hanno dato la disponibilità a aiutare i giapponesi nella gestione dell'impianto. Insomma, secondo me è il classico caso che dovrebbe richiedere un intervento dell'AIEA e affidare quantomeno la direzione dell'intervento di messa in sicurezza e di ripulitura della centrale, cioè un intervento che richiederà almeno 40 anni, a qualcun altro, a un'autorità esterna che non abbia come fine unico, come fine principale, quello di minimizzare e di ridurre i costi. Ma la IEA non viene chiamata o non va? Com'è che funziona qui il meccanismo? La IEA non ha purtroppo alcuna competenza trattandosi di un incidente nazionale, cioè fornisce expertise però su richiesta, eventualmente. Forse questo incidente dovrebbe anche portare la comunità internazionale a riflettere che non ci sono solo le crisi geopolitiche come quella della Siria e così via, ma ci sono anche delle catastrofi naturali nelle quali forse sarebbe giusto che la comunità internazionale potesse dire la sua, per dire ti mando qualcheduno della IEA per forza, perché voglio un controllo, poiché anch'io vivo su questo pianeta. Sono perfettamente d'accordo con come c'è il dovere dell'intervento umanitario come quello, o suppostamente umanitario come quello che si sta invocando adesso per l'intervento in Siria, stanno invocando adesso gli americani per l'intervento in Siria, dovrebbe esserci un uguale diritto per quanto riguarda gravi catastrofi ambientali, cioè il Consiglio di sicurezza dovrebbe porsi anche il problema di intervenire in casi di questo tipo. Non è mai successo, sono sicuro che molti considerano che sia impensabile, però l'uccisione di migliaia di persone per utilizzando armi di distruzione di massa come il gas sarin, secondo me non è più grave dell'uccisione potenziale di anche esseri umani. Di esseri umani utilizzando la radioattività di un impianto nucleare. È anche un po' curiosa la posizione dei giapponesi e del governo giapponese su questo punto dopo l'esperienza di Fukushima. Beh, diciamo che il governo che gestì l'incidente ebbe l'ardire di dire che il Giappone doveva uscire dal nucleare, cadde. Le forze, il governo attuale, il governo Abe, sostiene che bisogna ritornare, sia pure in maniera più limitata rispetto ai 50 reattori di una volta, bisogna ritornare al nucleare. Quindi il settore elettronucleare è molto potente, ha buone lobby in Giappone, un paese che produce anche centrali nucleari, e che il premier Abe vorrebbe tornasse non solo a produrre ma anche a esportare. Sottolineo il fatto che il Giappone, dopo 14 mesi nei quali hanno funzionato due centrali, tornerà a partire dal 15 di settembre a essere completamente senza nucleare, perché lunedì scorso ha chiuso il reattore 3 della centrale di Oi, il 15 si chiuderà anche la Kansai Electric, chiuderà anche il numero 4, e quindi lo chiuderà per normale manutenzione, dicono. Comunque il Giappone tornerà a essere il 15 settembre un paese senza nucleare, il che significa che le industrie giapponesi, i servizi giapponesi, le abitazioni giapponesi funzioneranno senza nucleare. Allora è possibile. È possibile, evidentemente è possibile, perché sennò non lo farebbero. Grazie molte Alessandro Farrugia. Grazie a voi. Buon lavoro, insomma, sempre su questi temi ci fa piacere leggerti. A voi, buona giornata. Grazie.